edizione. 6:14 minuti, eccoci con prima edizione, ancora buona giornata da Anna Migliorati e cominciamo provando, come qualche volta ci accade, a cercare di strapparvi un sorriso alle 6:14 minuti del mattino. La premessa scientifica impeccabile, sentite un po': se le mucche sono meno stressate dalle mosche producono un latte, quindi un formaggio migliore. Allora l'ente promotore del formaggio in questione ha annunciato una nuova rivoluzionaria tecnologia di produzione, i gechi, ghiotti di mosche, come compagni delle mucche al pasto. Colo. Siamo impazziti? No, sentite. Bonjour. Depuis plus d'un siècle, le goût élémental n'a pas changé. È successo in rete dopo una serie di spot, quelli che sentite, diffusi su YouTube e la televisione svizzera. La Emmental ha rivelato che la tecnologia in questione è però piuttosto un pesce d'aprile. Ma intanto che è successo, in 100.000 hanno visionato lo spot, un migliaio di intenditori è arrivato fino a Berna per poter gustare il rivoluzionario formaggio, alcuni negozianti hanno chiesto di poterlo mettere in vendita e pesce d'aprile su pesce d'aprile, una ventina di turisti hanno chiesto di iscriversi a un falso geco safari e forse la palma del più bizzarro pesce d'aprile è davvero questa. Ma oggi è il 2 di aprile, quindi voltiamo pagina e c'è per noi la viabilità e poi seriamente le prime pagine dei quotidiani. Prima edizione. Un caos annunciato in vista per la dichiarazione dei redditi, non solo tasse da pagare, ma potremmo trovarci in molti italiani potrebbero trovarsi davvero in un gran brutto pasticcio. Che succede? È un po' l'apertura della maggior parte dei quotidiani che troverete questa mattina in edicola. I dubbi sull'IMU, chiesto il rinvio. Leggiamo dal Corriere della Sera che succede. I centri di assistenza fiscale hanno inviato una lettera al governo dicendo che c'è troppa incertezza sulle nuove aliquote per le case. E che succede infatti? Succede che bisogna pagare la prima rata dell'IMU, la nuova tassa sulla casa, entro il 16 giugno, ma la maggior parte dei comuni non hanno ancora fissato le aliquote e quindi non si sa quanto bisogna pagare. Così il Corriere della Sera, il Messaggero, apertura IMU, nuove regole per pagare nei comuni in ritardo l'addizionale con il saldo di dicembre, emendamento al decreto fiscale dopo l'allarme lanciato dai CAF sui tempi stretti. IMU, la stangata dei comuni, sindaci vogliono far pagare il massimo, ma i CAF dicono il rischio caos va rinviata. Così la Stampa, la Repubblica, IMU, caos versamenti, la tassa va rinviata, l'allarme dei CAF dal governo, indicazioni che arrivano in ritardo. Allora noi vogliamo subito farvi sentire i diretti interessati questa mattina, perché Valeria De Rosa ha sentito Valeriano Canepari, coordinatore della consulta dei CAF. Perché noi abbiamo sollecitato il governo a prendere una decisione? Perché ad oggi il sistema dei CAF ha fatto quasi oltre 1 milione di dichiarazioni modelli 730 e abbiamo visto che in questi modelli l'80% dei contribuenti deve pagare l'IMU, a differenza dell'ICI che veniva pagata da pochi perché con la prima casa esonerata la platea era scesa. Adesso invece la platea è grande, quindi dei 17 milioni dei contribuenti che i CAF assistono è probabile che 14-15 milioni siano tenuti a pagare l'IMU. Voi quindi avete sollecitato possibili soluzioni? La possibilità di pagare l'acconto IMU entro il 15 di giugno sul 50% delle aliquote basi stabilite dalla legge nazionale e fare poi il conguaglio a dicembre senza sanzioni per i contribuenti che pagheranno quel di più o quel di meno sulla base di ciò che i comuni nel frattempo delibereranno. Voi avete anche ventilato un'altra possibilità che potrebbe essere quella di spostare in avanti il termine, ma perché comunque l'acconto va pagato entro il 15 di giugno. Sì, io credo che questa sia un'ipotesi remota e da non prendere in considerazione. Noi ci concentriamo su questa perché se ci venisse data un'assicurazione che questa è la soluzione, noi saremmo in grado di gestire quei contribuenti che finora sono venuti senza creare né a loro né a noi disagi. E questo dunque il caos che si preannuncia all'apertura, dicevamo, della maggior parte dei quotidiani che troverete in edicola. Apre sul fisco anche il Sole 24 Ore del lunedì, ma ci ricorda che intanto per la questione fiscale appunto cambiano i ricorsi. Da oggi in vigore la procedura per limitare il contenzioso si applica alle cause dell'Agenzia delle Entrate di valore fino a 20.000 euro. I contribuenti vincono in media 4 volte su 10, così le stime del Sole 24 Ore, che ci ricorda anche come oggi proprio le modifiche all'IMU intanto sono all'esame delle commissioni del Senato. In agenda c'è l'emendamento governativo con gli sconti per gli immobili inagibili alle case popolari, mentre gli agricoltori e la proprietà edilizia chiedono altre correzioni. E mentre ancora si lavora, come sentivamo, i comuni non hanno ancora fissato le aliquote e quindi per la dichiarazione dei redditi il rischio è quello del caos. Staremo a vedere oggi che succederà. Le altre notizie nel frattempo sui giornali che trovate in edicola, la Repubblica innanzitutto, che è uno dei pochi che non apre su un l'IMU ma lo mette a centro pagina, questo perché l'apertura invece è ancora sul lavoro. Cambiamo assieme l'articolo 18, così il leader del PD Bersani questa mattina su La Repubblica si rivolge a Monti, l'appello di Bersani a Monti: la riforma va salvata, dice Bersani, sì al reintegro e votiamo prima di maggio, non sono agli ordini della CGIL, dice ancora Bersani, e questo è l'intervento che trovate su La Repubblica. Apre oggi la prima pagina, nelle pagine interne a pagina 6 e 7 il colloquio in esclusiva con Bersani che chiede la mediazione sull'articolo 18. Oggi tra l'altro ci saranno nuovi incontri proprio sul lavoro. Altra questione che invece scuote il governo, la trovate anche questa un po' su tutti i quotidiani ma in grande evidenza centro pagina, sceglie di metterla il Messaggero, ed è quella degli esodati, coloro che non sono né in pensione né al lavoro. Lo scontro nel governo, l'avete sentito anche in GR24, il sottosegretario Polillo che parlando in TV dice una soluzione c'è, il contratto non è valido, quindi torneranno al lavoro, e l'ira della Fornero ieri sera che ha di fatto smentito Polillo dicendo se una soluzione ce l'ha allora intervenga direttamente lui. Anche questa questione aperta, della quale sicuramente si parlerà in settimana. Altra notizia che trovate in grande evidenza, sceglie una finta apertura addirittura il Corriere della Sera, è un grande immagine a centro pagina della Repubblica, ma la trovate un po' dappertutto: la lunga marcia di San Suu Kyi, la vittoria di Suu Kyi fa sperare la Birmania, questo il titolo per il Corriere della Sera. La premio Nobel che guida il movimento democratico eletta al Parlamento aspettava la rivincita dal 1990, Birmania, trionfo storico per San Suu Kyi, così la Repubblica. Trionfa San Suu Kyi anche per il Messaggero, e il Nobel torna in Parlamento, il titolo scelto da La Stampa. Altra notizia che anche questa farà fatto discutere già molti, allora la leggiamo dal centro pagina del Corriere della Sera, ma anche questa la trovate prima pagina o pagina interna un po' dappertutto: l'analisi dei patrimoni fatta da Banca Italia. I 10 italiani più ricchi valgono 3 milioni di euro, basta il patrimonio dei 10 italiani più ricchi per uguagliare quello dei 3 milioni dei più poveri. Più poveri e più ricchi si equivalgono, il problema è che i ricchi sono solo in 10, e per Banca Italia tra il 1987 e il 2008 solo gli anziani si sono arricchiti, così l'analisi di Banca Italia. Ancora un'immagine che troverete invece su molti quotidiani è quella di Chinaglia. Allora, il Messaggero: è morto Chinaglia, la bandiera della Lazio, dallo scudetto alla fuga, una pallonata allo stomaco, un ribalzo al cuore quando la notizia ha attraversato l'oceano dalla Florida a Roma. Le partite della domenica pomeriggio erano appena terminate, la Lazio ne aveva giocato di sabato sera, impensabile in quegli anni 70 quando Giorgio era il gigante, l'artefice, il protagonista di un sogno bianco celeste, un sogno che diventò scudetto. Il centravanti scomodo che segnò in due mondi, addio a Giorgio Chinaglia, così lo ricorda anche il Corriere della Sera. E poi qualche segnalazione, il caso, la rivoluzione omeopatica, promossi nuovi farmaci, ci racconta ad esempio La Repubblica, saranno trattati come farmaci, stesse procedure di autorizzazione per la messa in vendita e dunque stessa dignità, e in più aumenteranno di numero. In Italia si sta avvicinando una rivoluzione per i prodotti omeopatici e per la medicina che li utilizza. Dopo 17 anni di blocco del mercato, una rivoluzione in arrivo per la medicina in Italia. La Repubblica. Sul Messaggero parliamo invece di bollette energetiche, 2 miliardi di costi aggiuntivi nelle bollette degli italiani, se ci sono anche 12 miliardi di oneri di sistema. Si tratta degli incentivi alle rinnovabili, ma non solo, almeno 2 miliardi di euro nulla hanno a che vedere con l'energia e meno che mai con quella verde. Si tratta comunque di voci di costo in una bolletta che è sempre più cara. Ne parleremo anche noi più avanti a prima edizione, perché da ieri sono scattati i primi aumenti per l'energia elettrica, da maggio potrebbero scattarne altri, sono davvero le rinnovabili sul banco degli imputati. Più avanti ne parleremo con un ospite. Solo un'ultima segnalazione, abbiamo tempo prima di chiudere questa prima parte di prima edizione, la prendiamo in questo caso dalla Stampa, perché invece c'è un aumento di costi che ha prodotto un altro effetto. L'Italia mette in crisi il boia negli Stati Uniti. Che succede? C'è stato un blocco delle importazioni dal nostro paese, della sostanza che serve per l'iniezione letale, e oggi per gli Stati Uniti importarla non da noi ma da altri paesi costa 15 volte di più. Ecco perché negli Stati Uniti la pena di morte sta diventando sempre meno conveniente e sempre più costosa. È l'Italia a mettere in crisi il boia negli Stati Uniti. Una storia raccontata questa mattina dalla Stampa. Ci fermiamo qui per questa prima parte di prima edizione, ho solo una piccola pausa e poi ricominciamo riepilogando come sempre le notizie di oggi. Prima edizione. Le 6:34 minuti, questa mattina con le inchieste di Radio 24 ci aspetta Alessandra Tedesco. Italia in controluce. Una buona giornata da Alessandra Tedesco. Oggi parliamo della discarica della Discordia. In Lomellina, provincia di Pavia, cresce la mobilitazione dei cittadini contro la realizzazione di una discarica di amianto. La prima parte dell'inchiesta in due puntate di Maria Luisa Pezzali. Il grido di allarme ci arriva via mail da un comitato di cittadini di alcuni comuni della Lomellina. Pianura Padana, provincia di Pavia. La Lomellina è sede di riserve naturali e parchi. Terra di riso, cascine e castelli, e si sta trasformando, denunciano questi comitati, nella pattumiera della provincia. In Lomellina, rileva l'ARPA, si localizza il maggior numero di discariche della Lombardia. Gli impianti di trattamento dei rifiuti, dallo stoccaggio alla termodistruzione, passando per il recupero dei fanghi da agricoltura, la triturazione, il compostaggio, ha scritto la provincia pavese, sono 110, uno ogni 5.000 abitanti, uno ogni 26 km quadrati. Ecco perché qui la mobilitazione popolare contro la realizzazione di una discarica di cemento amianto, l'Eternit, inizia a fare notizia. L'impianto dovrebbe essere realizzato a Ferrera Erbognone, 1140 abitanti, sede di una raffineria dell'Eni, una delle più grandi in Europa. La discarica dovrebbe sorgere proprio lì davanti, dove ora c'è un bosco di pioppi. Il centro abitato dista 2 chilometri. Abbiamo già dato, ci dice Marco Basati, portavoce di uno dei comitati antidiscarica. Noi qua in Lomellina abbiamo già una situazione ambientale veramente disastrosa, con impianti industriali ad altissimo tasso di inquinamento, veramente con una concentrazione come credo in nessun'altra parte d'Italia. Sicuramente una discarica di amianto che porta 900.000 metri cubi dietro le nostre case è senz'altro una di queste iniziative da fermare. Il primo progetto depositato dalla società ACTA parla di 600.000 metri cubi di rifiuti di capienza. Sui numeri c'è una confusione sospetta, ci dice ancora Basati. Quello che è certo è che i volumi ipotizzati, siano 600 o 750.000 come sentiremo tra poco, equivalgono a più del doppio del fabbisogno di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto della provincia di Pavia. Questo significa che nella discarica di Ferrera Erbognone arriverebbe materiale anche da altre zone. Smaltire il cemento amianto, del resto, è ormai una vera e propria emergenza. Entro il 2015, per legge, tutto l'amianto rinvenuto dovrà essere rimosso. Secondo il PRAL, Piano Regionale Amianto Lombardia, nella regione ce ne sono 2 milioni e 800 mila metri cubi. Inutile sottolineare come il business faccia gola a molti. Di discariche in Lombardia attualmente ce ne sono solo due. Una a Cavriana, provincia di Mantova, ormai satura. L'altra a Montichiari, provincia di Brescia. Un altro paio di progetti sono in itinere. Chi primo arriva si prende la fetta maggiore di amianto e di guadagni. È altrettanto inutile evidenziare come, tuttavia, lo smaltimento sia una necessità effettiva, perché, e su questo tutti concordano, è meglio che tutto l'Eternit sparisca dalle nostre case, uffici, scuole e strade. E oggi alle 13.30, sempre in Italia in Controluce, la versione estesa della prima puntata di questa inchiesta. Una buona giornata da Alessandra Tedesco. Grazie, appuntamento dunque alle 13.30 e intanto noi voltiamo pagina con le notizie invece di questi minuti. 6.38 minuti, ancora buona giornata da Anna Migliorati, seconda parte di prima edizione, e parliamo del blitz scattato proprio in queste ore voluto dalla procura di Bari che indaga sul calcio scommesse. Ci sono arresti, si parla anche di arresti eccellenti, anche se per questo per ora sono solo indiscrezioni. Di sicuro ci sono alcune partite che sarebbero state truccate, che sono sotto la lente di ingrandimento. Allora, c'è anche un calciatore di Serie A, tra l'altro, tra gli arrestati. Allora cerchiamo subito di fare il punto e di avere le ultimissime notizie. Io saluto Katia Caramelli. Sì, buongiorno Anna. Pochi particolari emersi fino ad ora. Si sa che i carabinieri di Bari stanno eseguendo una serie di provvedimenti restrittivi, ma il numero delle persone coinvolte non si conosce. Si sa anche che tra gli arrestati ci sarebbe almeno un calciatore di Serie A. Associazione per delinquere finalizzata alla frode in competizioni sportive è il reato invece contestato. In tutto, inoltre, sarebbero una ventina le persone indagate a Bari nell'ambito dell'inchiesta sul calcio scommesse, tra loro 9 ex calciatori biancorossi coinvolti nella presunta combin di 9 partite dello scorso campionato di Serie A. Tra le partite truccate c'è anche il derby Bari-Lecce, finito 0-2, che permise ai giallorossi di centrare la salvezza proprio in casa dei biancorossi, che erano già retrocessi in Serie B. Nei giorni scorsi, lo ricordiamo, inoltre si erano costituiti i cosiddetti zingari Dinko Saka e Alija Ribic nell'ambito dell'inchiesta di Cremona sul calcio scommesse. Saka, ex allenatore delle giovanili della Dinamo Zagabria, e Ribic, ex camionista, sono accusati di far parte del cosiddetto gruppo che contattava i calciatori per comperare le partite. E per il momento è tutto. E grazie a Katia Caramelli. Naturalmente ci aspettiamo altri sviluppi, vedremo se riusciremo a darveli già prima della conclusione di prima edizione. Blitz che, come sentivamo, stanno scattando proprio in questi minuti, e quindi la notizia è in corso e ancora in movimento. Nel frattempo noi voltiamo pagina. Voltiamo pagina. Allora, vi abbiamo raccontato prima, nella prima parte di prima edizione, del rischio caos per l'IMU, nuova imposta municipale sugli immobili, imposta per la quale c'è una scadenza per pagare, che è il 16 giugno, ma non ci sono ancora le aliquote fissate dai comuni. Ma in queste giorni c'è anche un'altra questione che agita i tecnici, e non poco, perché il governo sta studiando anche come ripensare la bolletta dell'energia elettrica. Bolletta che da ieri, proprio dal 1 di aprile, costa di più e che a maggio, sappiamo, rischia di aumentare ancora e considerevolmente, come ci ha detto venerdì l'Authority per l'energia. E allora che è successo? È successo che si è scatenato innanzitutto un dibattito su cosa determina il suo aumento, dibattito che ha visto ieri in campo anche due ministri, il titolare dello sviluppo economico Passera e quello dell'ambiente Clini, su posizioni diverse. Passera pensa di riallineare gli incentivi per le rinnovabili alla media europea, il collega Clini invece per l'ambiente frena e spiega che mettere in contrapposizione la riduzione della bolletta energetica e il sostegno alle fonti rinnovabili è un errore strategico. Allora cominciamo con farvi risentire Clini. C'è una responsabilità nella speculazione che abbiamo avuto nel corso del 2010 e parte del 2011 a causa del cosiddetto decreto salva Alcoa, che alla fine dell'anno 2010 aveva sostanzialmente aperto i varchi per un eccesso di incentivi sul fotovoltaico che premiavano la speculazione finanziaria con rendite fino al 20-25%, che è evidentemente un fatto non sano. E allora, così Clini, e cosa è successo? È scattato il pressing degli ambientalisti e della sinistra per difendere la linea dell'energia. I tagli sugli incentivi all'energia pulita sarebbero però tanto drastici da far saltare buona parte di questo settore. Allora io saluto l'ospite di questa mattina, Cesare Fera, presidente ANEST, l'associazione che riunisce le aziende che si occupano di un tipo di energia rinnovabile, il solare termodinamico. Buongiorno. Allora, mi corregga se sbaglio, ma per spiegare in maniera il più semplice possibile, il termodinamico è quello che utilizza gli specchi, per intenderci, sfruttando la componente termica dell'energia solare, giusto? Sì, sfrutta componente termica, può fare sia calore che elettricità, perché con la concentrazione degli specchi arriva a temperature anche di 500 gradi che consentono la produzione di energia elettrica, oltre che di calore. Raggi del sole, quindi rinnovabile, ma la domanda che molti italiani, pagando il costo della bolletta in questi giorni, si fanno, visto che voi siete stati messi, come sentivamo, sul banco degli imputati, è come rinnovabili? Costate troppo? Siete un lusso? Diciamo che il costo è sempre difficile da definire, l'importante è non tener conto solo del costo mero di produzione, ma anche dei costi collaterali, che purtroppo non vengono sempre messi a bilancio. Per esempio, la produzione di energia con gli idrocarburi, bisogna tenere conto degli effetti dell'inquinamento, che la contabilità non vengono messi perché il costo dell'attività viene calcolato sui costi di produzione. Se già si inserisce il costo dell'inquinamento, un altro costo importante è il costo della sicurezza degli approvvigionamenti. Cioè, se andiamo avanti con gli idrocarburi, cioè gas e petrolio, dipenderemo sempre dalle politiche estere. Viceversa, con le energie rinnovabili sono sempre ed esclusivamente energie nazionali, cioè il vento e il sole vengono prodotte sul territorio nazionale. E già questi due fattori hanno una valenza, a mio avviso, molto importante. È difficilissimo in effetti stabilire qual è il prezzo giusto, il costo sulla bolletta e il costo per il paese, però devo dire che a mio avviso in questo caso ha assolutamente ragione il ministro Clini, e per quanto stimi molto il ministro Passera, dovrebbe dar fiducia alla lunga esperienza del ministro Clini sulla gestione delle rinnovabili, per evitare di fare errori che possono rappresentare un risparmio. È vero però che la bolletta la paghiamo tutti quanti, e la paghiamo da ieri più salata, e da maggio potremo pagarla ancora più salata. Prima edizione. Allora, continuiamo a parlare di bolletta energetica e di quanto ci costa la bolletta energetica. Da ieri molto di più, da maggio potrebbe costare ancora di più. E allora il dibattito, sentivamo, è aperto all'interno del governo. Sentiamo ancora il ministro Clini. Gli italiani devono sapere che con le fonti rinnovabili si riduce il fabbisogno di importazione di olio, di gas e di carbone. E allora bisogna cominciare a capire perché questa riduzione di importazione non ha effetti sulla bolletta. Probabilmente abbiamo un sistema elettrico troppo rigido e l'introduzione delle rinnovabili nel nostro sistema elettrico sta mettendo in luce questa situazione, un sistema elettrico troppo basato ancora sulla vecchia impostazione del monopolio elettrico. Bolletta davvero cara, ma dobbiamo anche sapere che quando paghiamo la bolletta dell'energia elettrica paghiamo ad esempio anche i costi legati al nucleare passato, i costi di contributo per le aziende che hanno investito negli anni 90, i costi di contributo per le aziende ad alto consumo energetico e molto altro ancora, un po' come il prezzo della benzina, si sono cumulati costi sulla bolletta energetica. ma che scelte vogliamo fare? Vogliamo ancora puntare sull'energia verde? Fera, è indubbio che al di là di quelli che sono i pressing di queste ore, voi costate molto di più. Basta la scelta di un paese a sostenere in un momento di crisi costi più alti? E poi le chiedo ancora, è vero che comunque c'è stata una quota di speculazione? Allora, partendo dalla seconda domanda, sicuramente sì, ci sono stati degli errori fatti in passato su alcuni settori, nel senso che si sono fatti dei prezzi troppo alti che non ci si è resi conto che il prezzo delle materie prime, delle macchine per produrre energie rinnovabili sarebbero potuti scendere molto nel tempo, per cui c'è stato un gap tra un prezzo alto garantito per la produzione di energia è un prezzo che è sceso molto rapidamente e si stende per produrla. Non si può però di un errore del passato compromettere tutto il settore. C'è un leggero costo in più del cittadino che abbiamo visto sui giornali, è tra il 4 e il 7%, è vero, però bisogna vedere che ci sono 100.000 posti di lavoro creati dalle energie rinnovabili, che c'è una riduzione della bolletta energetica, cioè i 60 miliardi che spendiamo ogni anno per comprare petrolio e gas andranno via via riducendo con l'entrata in funzione di impianti di energie rinnovabili, e in più una filiera nazionale, specie nel termodinamico che oggi è ancora una filiera nazionale, che potrà rappresentare una voce importante di esportazione. Avete avuto contatti col governo in queste ore per cercare di capire in che direzione si andrà? No, in queste ore no, diciamo che abbiamo seguito nei mesi passati una con attenzione e presentato nel caso della nostra associazione le potenzialità di energia termodinamica, quello che succede all'estero, i vantaggi per il paese per il futuro, nonché per le altre fonti, perché venissero ben compresi e valutati gli effetti di una possibile riduzione del sostegno alle energie rinnovabili, che tengo a precisare comunque che su una riduzione sono tutti d'accordo, l'importante è che la riduzione non sia così accentuata da fermare il settore e non consentirgli di dare il suo contributo, peraltro obbligatorio per l'Unione Europea, che noi abbiamo un'altra voce di costo che sono le multe che dobbiamo pagare all'Unione Europea se non raggiungiamo gli obiettivi di Kyoto del 20%. Quindi voi dite, noi in fin dei conti aiutiamo anche a ridurre questo? Esatto, non vorrei che per risparmiare qualche miliardo sulla bolletta andiamo a spendere dei miliardi che dobbiamo dare all'Unione Europea per crescere dal sistema produttivo italiano. Una prospettiva a lungo termine quanto? Ma guardi, sicuramente andranno scendendo, nel senso che i prezzi che sono stati passati per anni verranno molto molto ridotti, per cui questo andrà riducendosi come importo. Però la direzione ormai è quella, se nel 2020 c'è il 20% rinnovabile, nel 2030 il 30% e alcuni paesi nel 2050 già prevedono 80% di rinnovabili. Questo sistema ti garantisce. Insomma, lei dice un costo che dobbiamo pagare. Beh, il dibattito è aperto, il pressing mi pare assolutamente chiaro. Vedremo anche tra Passera e Clini quale linea passerà nelle prossime ore. Grazie, nel frattempo, questi termini della questione. Saluto Cesare Fera, presidente ANES, associazione che riunisce, dicevamo, le aziende che si occupano di solare termodinamico. Buona giornata. Grazie. E buona giornata anche a tutti voi. Restano Viola Bottoni, Peter Bescapè. Chiudiamo qui prima edizione. Tra pochissimo ci risentiamo con GR24. Le ultime notizie a partire, come vi abbiamo raccontato poco fa, dagli arresti scattati e in corso in queste ore per il calcio scommesse. Buona giornata, buon lunedì da Anna Migliorati.